Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La facoltà d'architettura, con all'interno una insospettata presenza di agenti di polizia che organizzarono una furiosa resistenza. A quel punto ci barricammo in questa specie di androne e ad un tratto riuscimmo a venire fuori come si poteva. Passando in mezzo a questa selva di celerini fu uno di quei momenti di grande confusione. Io ricordo di essere arrivato in cima a una scalinata interamente coperta della schiuma degli idranti e di essere stato poi trascinato da una ragazza a terra, rotolando per tutta la scalinata e riuscendo a ritrovarmi al di là delle gambe dei celerini che facevano una specie di muro, insomma, di forca caudina. Per qualcuno forse tutto cominciò proprio a Valle Giulia, ma figuriamoci, poi la patina del tempo crea enfasi, crea miti, crea contraddizioni, pensando che c'era anche Giuliano Ferrara lì con il Loden, con un bastoncino in mano, chissà che avrà fatto Ferrara sulle scale di Valle Giulia, coi celerini davanti, nel marzo del 68. Poi gli anni passarono e ci furono un paio di decenni che ho vissuto sulla mia pelle, 62 anni, conosco bene, vivevo in una città di provincia, Perugia, ma non per questo lontana da quello che sta accadendo. Ancora molto facile vedere una volta il proprio compagno di banco nei titoli dei giornali, morto ammazzato, spiaccicato per strada con la testa fracassata o arrestato e improvvisamente, misteriosamente morto durante un interrogatorio, durante una traduzione, durante un qualsiasi motivo. Era molto facile vedere i genitori, fratelli, sorelle, padri, madri, che piangevano di figli morti, di figli che però in realtà non hanno partecipato a nessuna guerra, se non quella guerra che ci facevamo noi stessi, giorno dopo giorno, una guerra che probabilmente era molto più profonda e molto più sedimentata nei nostri nonni, nei nostri padri, nelle persone che ci stanno attorno, nella politica, quello che allora era la politica, in quello che erano allora i mezzi di comunicazione, nell'ideologia che si tagliava col coltello. Perché questa mattina è venuta l'idea di ritirare fuori questa sorta di idea dei figli ammazzati di fronte ai genitori? Perché vedo la foto della sorella di Stefano Cucchi, colui che ancora sorride. Non ho nessuna mitologia, per me è un fatto di cronaca come un altro quello di Stefano Cucchi, non ho assolutamente nessuna scelta. Direi che forse è il caso di lasciare in pace questo povero ragazzo che ho visto come una mummia egiziana dentro un sacco per cadaveri, cucito, ricucito, picchiato, massacrato. E quando lo vidi la prima volta 7 anni fa mi fece impressione. Una foto che la famiglia aveva fatto nell'obitorio e la famiglia ha cominciato a far circolare, è diventato un caso di cronaca dei più controversi, ancora si parla di Cucchi. L'hanno ammazzato i carabinieri o non l'hanno ammazzato i carabinieri? Di cosa è morto? Oggi dicono che è morto di epilessia. Il pestaggio non c'entra, non è stato pestato, ma è morto di epilessia. È un figlio con attacchi epilettici, non credo che si muoia di epilessia, soprattutto in un posto c'è un presidio medico. Comunque non entro nel merito, comunque sia c'è una sorella che chiede giustizia per un fratello ammazzato da persone che dovrebbero comunque tutelare la nostra sicurezza, la nostra tranquillità. Vi è mai capitato una vostra storia personale, una storia delle vostre amicizie, in quello che voi ricordate negli anni passati, proprio il fatto di un ragazzo ammazzato in una guerra che non era una guerra, perché succedeva che i ragazzi fossero ammazzati e succedeva che poi i genitori vivessero il resto della loro vita o nella voglia di giustizia o nella voglia di vendetta. 80024, ci sentiamo tra un poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Vi ho detto di cosa vorrei parlare questa mattina. Mi è venuto distinto questo argomento perché mi sembrava che sia stata una o due generazioni nel nostro paese che è stata attraversata in maniera viscerale, concreta, nella propria esperienza di vita personale, esperienza che non si dimentica, può andare in un secondo piano, può essere assopita, ma poi quando legge del caso Cucchi si ricorda, dice: ah, ti ricordi il periodo in cui si sparava per strada, in cui ragazzi di ottima famiglia o anche di pessima famiglia o di mediocre famiglia finivano con comunque nelle maglie della giustizia, che è una giustizia che a noi non sembrava mai giusta, sembrava sempre di parte, da qualunque parte noi fossimo o fossimo collocati o ci collocasse il mondo, la giustizia era sempre di parte, quindi incorrere nelle mani della giustizia e del tutore dell'ordine era comunque qualcosa che era considerato una iattura, una sfiga, non ne uscivi mai bene, ne uscivi molto malconcio. Cucchi è uscito estremamente malconcio. Poi se Cucchi facesse lo spacciatore e se il problema non fosse legato all'ideologia, fosse legata comunque alla bassa criminalità, non mi interessa. Sta di fatto che comunque una famiglia oggi ha un cadavere di cui non si dà ragione. In un paese civile non dovrebbe accadere in nessun caso. Vi ricordate quando questo accadeva? Accadeva a tutti, accadeva nelle case dei professori universitari, accadeva nelle case delle illuminatissime famiglie, accadeva nelle case dei proletari, accadeva nelle case delle persone che nemmeno si immaginavano che il figlio che usciva la mattina e andava al liceo, andava all'università, in realtà ci andasse con una pistola in tasca o con una spranga in tasca o con una bomba in tasca o ci andasse semplicemente con niente in tasca ma qualcun altro con qualcosa in tasca lo incontrava per strada. E allora ho fatto un'operazione scellerata e dal punto di vista della deontologia aziendale pessima. Ho rubato l'ospite che stava appena uscendo dallo studio di Milan questa mattina per parlare di tutt'altro argomento, parlavano di Pinzarotti, dei 5 Stelle, cose che a me in questo momento non interessa niente, perché è come se fosse una sorta di brandello di un tempo che non c'è più, una reliquia del passato, come se ci fosse un grande museo archeologico. Poi nella vita è una persona che fa la sua vita, però ha toccato, lambito e vissuto profondamente lo stato d'animo che questa mattina voglio rievocare. L'ha fatto al punto tale che ci ha anche scritto un libro, ha aspettato diciamo una trentina d'anni, poi ha scritto un romanzo. La persona è Flavia Perina. Flavia Perina, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Che è stata pazientissima questa mattina, che aspetta comunque, aveva mille impegni, doveva andare a portare un figlio all'università e via dicendo, ha aspettato che volevo, mi sembrava una sorta di fatalità del destino che avevo in testa questa cosa, incontro Flavia Perina che da questo esce. Ma soprattutto Flavia Perina ha appena scritto un libro e pubblicato che mi aveva anche mandato e non l'avevo manco visto, pensa, l'ho visto stamattina che ce l'avevi, che si intitola Le Lupe, è un romanzo edito da Baldini e Castoldi e racconta una storia proprio di un ragazzo ammazzato, una persona ammazzata dalla polizia e di una famiglia che non si rassegna perché il figlio sia stato ammazzato comunque in questo caso e compie un'operazione che in realtà non appartiene a quelle che sono diciamo le ritualità accettabili. Allora Flavia Perina, le lupe chi sono? Le lupe sono la madre di questo ragazzo morto senza un motivo, perché viene scambiato per un ultras ai margini di scontri allo stadio, ucciso da un poliziotto durante una piccola rissa per un equivoco. E quindi le lupe sono sua madre e sono le sue vecchie amiche degli anni 70 che la madre ricontatta, perché di fronte a questa massima ingiustizia che lei percepisce come qualcosa di atroce, irreparabile, nessuno le ridarà mai più suo figlio e sa anche che non avrà mai giustizia dallo Stato perché conosce tanti precedenti e quindi è consapevole del fatto che quando di mezzo ci sono le forze dell'ordine che uccidono anche per errore è molto difficile avere giustizia e verità, e le viene fuori un sentimento molto barbaro, ancestrale. Lei vuole vendicarsi, non vuole neanche farsi giustizia, si vuole proprio vendicare. È un po' come il protagonista del Borghese Piccolo Piccolo, che sembra impossibile. È un po' differente secondo me, perché questa, il Borghese Piccolo Piccolo, appunto, c'era forse quest'idea di giustizia fai da te. Questa madre è consapevole che il suo sentimento è vendicativo, barbaro, inammissibile. È una madre borghese, vive a Roma Nord, perfettamente inserita, integrata, pur avendo avuto una giovinezza borderline negli anni 70, quindi sa bene che questa è una cosa non civile, sbagliata, e però c'è questo sentimento viscerale della madre che richiede una riparazione vendicativa. Quante ne hai viste di madre e di padre con i figli ammazzati te? Molti mi hanno detto ma hai scritto un libro dove ci sono tantissime figure femminili e poche maschili. In realtà sono sempre le madri, e, diciamo, sia negli anni 70 che nei casi più recenti, penso, non so, i casi che abbiamo citato, Cucchi, ma anche Aldobrandi, Uva e lo stesso Gabriele Sandri, e così come infatti diciamo vicende storiche, penso alle madri di Plaza Di Maio, non ci sono i padri di Plaza Di Maio, ci sono le madri, perché le madri hanno con i figli secondo me un rapporto viscerale molto differente da quello dei padri, e perché la deriva barbarica della vendetta si addice probabilmente più alle donne che agli uomini. Gli uomini tendono comunque a mediare. E poi... Gli uomini tendono comunque a mediare, forse anche a farsene una ragione, a dire andata così, sì, cercherò, proverò a razionalizzare. Le donne quando si parla di figli non razionalizzano mai. Senti, qual è la differenza tra un caso Cucchi e uno dei tanti casi? Potrei farti un elenco infinito, ma tu conosci meglio di me i nomi. Di ragazzi della destra e della sinistra, ma sono passati tanti anni e il discrimine ideologico non ha più senso. No, ma non aveva senso probabilmente neanche quegli anni. È che tu hai anni. Visto di cui tu poi sai che ci sono storie che sono sempre rimaste dei sempre punti rimaste interrogativi. Così da Giorgia Ramasi, che possiamo ricordare, non so, Giaquinto, che è un ragazzo morto a Roma, ucciso da un poliziotto, e Cucchi. Il minimo comune denominatore è sempre il fatto che quando c'è un uomo in divisa di mezzo, ecco, c'è una perizia che mette in dubbio, c'è la discussione forse era armato, c'è un'identificazione del responsabile estremamente lenta ed estremamente confusa, e quindi insomma le strade magari tecniche sono tante, però l'approdo è praticamente sempre un non luogo a procedere oppure un legittimo dubbio che leva la possibilità di condannare o di sanzionare. Credo che questo vada anche a grandissimo svantaggio delle forze di polizia, quelle per bene, che sono in qualche modo ferite diciamo da questi casi di ingiustizia. Diciamo che l'apparato dello Stato tende sempre comunque a difendersi, a insabbiare e salvare comunque l'aspetto esteriore dell'istituzione, anche andando... hanno fatto figure pessime, potrei anche io citarti tanti casi, in cui difendere allo stremo poliziotti di fronte a una madre che va in piazza, che porta le foto del figlio, comunque certo. Tengono duro sempre su questa linea. Ecco, ma non si rende conto lo Stato, tutto questo forse era accettabile negli anni del terrorismo, dove c'era una grande emergenza e non si stava a guardare il capello, per dirla non la romana. Non si andava per il sottile. Ecco, non si andava per il sottile. In tempi moderni, di oggi, contemporanei, queste sono ferite, l'ingiustizia commessa dallo Stato è una ferita irreparabile e larga che leva fiducia nelle istituzioni non soltanto a chi ne è personalmente colpito, ma a mondi più grandi. Anche perché ti dimostri il fatto che oggi si parla ancora del caso Cucchi. Nella percezione generale, nel ben pensantismo generale, in fondo un ragazzo che spacciava droga, su questo non ci piove, certo. Benissimo. Eppure crea un caso, crea una pietas, crea un'indignazione pubblica. In altri tempi comunque l'indignazione era legata all'appartenenza ideologica. Mai nessuno di sinistra si commosse per un morto di destra, mai nessuno di destra ritenne che un morto di sinistra in realtà tutto sommato gli stava bene. Sì, questo è vero. L'Italia ha delle memorie separate, il che ci può anche stare perché le memorie alla fine sono sempre separate. Io non credo alla favoletta della memoria condivisa, però le memorie possono rispettarsi l'un l'altro, ognuno ha la sua, però ci si può rispettare. Un grande paese, un paese veramente democratico, è quello che riesce a mettere insieme memorie anche separate in un contesto civile di reciproco rispetto. In Italia non è successo neanche questo, non c'è neanche rispetto per le reciproche memorie. Però storie come quella di Cucchi e come altre di questo tipo, storie contemporanee di questo genere, dimostrano di come l'appartenenza politica poi alla fine in questi casi non è molto rilevante. Sono cose che succedono da tutte le parti, spesso anche quando non c'è una parte. In questo caso non c'era una parte. Fermiamoci un istante, cominciamo a sentire qualche ascoltatore. 800 24 00 24, vi ho dato diciamo la possibilità di dare fondo ai vostri ricordi, perché adesso voglio sentire le persone, perché non è che soltanto Flavia Perina racconta quello che ha vissuto lei, io in qualche maniera indegnamente, superficialmente racconto le cose mie. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Sì, io ho 64 anni, quasi coetanei, per cui la mia esperienza non è che abbia avuto un'esperienza con la polizia in quegli anni, però anno 75-76, più o meno doveva essere i primi di settembre. Che città d'Italia? Prato, uscivo dalla sede centrale di Prato della Democrazia Cristiana insieme ad altri amici per andare ad attaccare manifesti una sera verso l'una, colla in mano, manifesti così. E dopo una riunione andavamo usciti in via Garibaldi in centro, lì tac, arrivano degli estremisti di sinistra, era estremisti di sinistra a quei tempi, insomma, cioè un democristiano era come un nazista, diciamo la verità, per loro sì, forse anche peggio, anche peggio nazista, sì. Sì, dai. No, perché c'era tutto, ha detto il fanfascismo in quegli anni, diceva che Fanfani in realtà sovvenzionasse, c'era tutte degli scenari. E ci piace di più Fanfani a testa in giù. Esattamente, dai, mi ricordo. Cioè, Fanfani con la camicia nera nei manifesti, era bellissimo. Nelle vignette Fiorattini, con gli stivaloni da Gerarca. Poi è quello che ha fatto il centro-sinistra, ma questo non si dice perché non interessava, non bisognava dirlo. Ma andiamo al punto, dai, cosa vanno fatto? Allora nulla, circondati, pestati e stop. Per fortuna arriva la polizia, la gazzella, dei carabinieri mi pare forse, no polizia, e nulla, questi scappano, fuggono tutti e niente, la polizia a questi punti dice ok, che vi hanno fatto e non hanno fatto, è stato fatto solamente un... hanno preso una nota di tutti i dati e poi dopo c'era da fare la denuncia. Cioè, ecco, è stato ributto, perché quelli c'erano i pugni di ferro, voi c'avete il rosario dei Boy Scout, non è che la guerra era impari fra voi. Niente rosario, però noi non siamo per la violenza. Vabbè, detto questo, come oggi mi sono un altro partito, ma non sono per la violenza. Fermiamoci un attimo, grazie Fabrizio, fermo un secondo che mi stanno sollecitando la linea, ma possiamo anche continuare dopo, c'è anche Marcello in onda, cominciano ad arrivare le telefonate, mi piace dare la stura a questo tipo di ricordo, che se inizia da un giovane democristiano che attaccava i manifesti, bastonato e poi anche in più identificato dalla polizia, vediamo che andando avanti troveremo cose senz'altro interessanti. A tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 11 novembre 2007, un giorno di follia all'autogrill di Badia Alpino sull'autostrada A1. Un accenno di rissa tra tifosi juventini e tifosi laziali. Un agente della polizia stradale che da lunga distanza esplode due colpi di pistola. Muore un ragazzo, Gabriele Sandri, 28 anni, noto DJ dei locali romani, colpito al collo mentre si trova all'interno di un'auto. Una morte assurda, un tragico errore, come dirà poche ore dopo i fatti il questore di Arezzo. A Victoria, 800 24 00 24, il caso Sandri come il caso Cucchi, come tanti altri. Questa mattina non è mio interesse, non è il mio scopo mettere sotto accusa la polizia, le forze dell'ordine. Immagino, sostengo e ho la certezza che anche dentro la polizia ci sono persone come in qualsiasi altro agglomerato umano, che hanno momenti di follia, hanno debolezze umane terribili, hanno esaltazioni che li portano a compiere atti come quello di questo poliziotto, che prende la pistola e spara al di là dell'autostrada all'autogrill di fronte, tenta un tiro lungo, avrà visto qualche film, chissà che cosa si è fatto in quel momento, e gli va tutto sommato bene nel suo intento, becca una persona e l'ammazza. Ecco, non ci interessa la storia del poliziotto, non perché non sia importante, ci interessa la storia di quello che rimane, della madre che ha raccolto quel cadavere, della famiglia che l'ha lavato, l'ha visto, l'ha andato a vedere all'obitorio e si è reso conto che comunque non potrà farci più niente, perché comunque vada andrà sempre male. Ho qui in studio Flavia Perina questa mattina, che è una giornalista, è stata direttrice del Secolo d'Italia, la prima direttrice del quotidiano nazionale, il quotidiano dei fasci, ti rendi conto, è assurdo, che sono quelli che in realtà le donne dovrebbero tenerle a casa. Sì, infatti fu una cosa molto discussa e molto commentata all'epoca, perché non lo fece Repubblica, non lo fece il Manifesto, fece il Secolo d'Italia. Lo fece il Secolo d'Italia. Poi l'Unità però non no, la perché hanno finito gli uomini, sì. Vabbè, che fu di tutt'altro tipo, fu la scelta, capito? Misero una locandina di un culo femminile con gli shorts, sì, con infilata l'Unità in tasca. Sì, ecco, io la locandina col culo non l'avrei fatta. Non l'avrei fatta. Sei stata dentro, attraversato con un'esperienza personale la politica, quella tosta degli anni 70, 80 e 90, di persona. Oggi è tutto un mondo che esiste soltanto nella memoria. Come tu hai detto, abbiamo memorie separate. Il frutto della tua memoria separata è stato un romanzo, Le Lupe, scritto da Flavia Perina, che è uscito in questi giorni, edito da Baldini e Castoldi. È la storia di un ragazzo ucciso. Un ragazzo ammazzato dalla polizia, e delle donne, le donne della sua famiglia, non si rassegnano il fatto sia stato ammazzato, non seguono le battaglie giudiziarie, non vanno sui giornali, non vanno per strada con i manifesti attaccati addosso con il cadavere del figlio, ma pensano un'altra cosa. Però fa parte dell'aspetto più controverso, più drammatico e più discusso di questo libro, che non posso anticiparvi perché è la fine del libro. Però dimmi un po', questa scelta alle radici in qualche tua esperienza, qualcosa che hai visto? Hai visto e sentito madri e padri, madri soprattutto, parliamo di madri. Sì, le ho viste. Che sì, dicono, adesso li ammazzo, faccio no, qualcosa. No, le ho viste, il libro è una costruzione, è un romanzo, è una costruzione di fantasia, è una cosa che molto spesso ho pensato anche nella mia attività di giornalista, leggendo dei fatti di cronaca e pensando chissà come si sentirà la madre. e non ho mai sentito dire madri mi voglio vendicare. Quasi tutte le madri dei casi noti alle cronache alla fine invece si sono fidate dello Stato, hanno fatto ricorso alla giustizia, hanno scelto altri percorsi ed altre strade, e quindi il libro è in qualche modo frutto di immaginazione, ma di una immaginazione realistica, perché tanti personaggi che ci sono, personaggi sia maschili che femminili, in qualche modo li ho attinti mettendo insieme frammenti autobiografici, storie che ho toccato, storie che ho vissuto. Questa donna appunto ricontatta le sue amiche degli anni 70, alcune amiche degli anni 70, per avere aiuto in questo suo progetto di vendetta, e appunto là ho dovuto attingere anche alle mie memorie personali. Senti, viviamo entrambi, io ci sono arrivato con la valigia di cartone dalla provincia, tu ci sei nata probabilmente in una città, devo dire tutto il contrario di tutto. Quando parliamo di queste vicende ci rendiamo conto che nessuno ne è fuori, qualcuno comunque una piccola traccia ce l'ha sempre, non soltanto nel suo DNA se è giovane, ma anche nella sua famiglia, nella sua storia. Oggi c'è il pezzo di Bonini su Repubblica che nella vicenda anche divertente, romanzesca, della giunta Raggi tira fuori una sorta di legame con una figlia, una nipote, una fidanzata tra Inar e l'assessore Muraro. Ecco, però questo che ti fa, lascia, l'episodio non mi interessa in sé, ma chi è che oggi può dirsi io sono fuori da tutto quello che è allora, caduto in questi anni? A Roma forse nessuno, perché Roma è una città veramente particolare sotto questo punto di vista. A Roma non è soltanto una grande stratificazione culturale o architettonica, non ci sono solo le case, non so, le chiese cattoliche sopra le chiese pagane, sopra le chiese greche, sopra i ninfei. Roma è anche una grande stratificazione di biografie, di emozioni, di storie, dove tutti hanno un passato più o meno. Cioè, tutti hanno pestato la merda prima o poi. Ecco, più o meno a tutti è capitato, tutti quelli che agiscono nello spazio pubblico, poi magari uno non so che ha avuto tutta la vita un banco di frutta al mercato, forse anche no, ma forse anche lui. Quindi a Roma tutti hanno una storia, tutti hanno una storia che incrocia altre storie, e molto spesso dei rapporti di dare e avere, dei crediti e debiti che risalgono alla giovinezza, alla mezza età, che poi vengono chiamati in causa quando serve, nel bene e nel male, talvolta nel male e talvolta nel bene. 800 24 00 24, adesso la voce agli ascoltatori. Marcello. Salve, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ora vorrei raccontare brevemente quello che mi è accaduto nel gennaio dell'84, quando fui appostato e poi inseguito per le strade di un quartiere di questa città. Di Roma? Come? Quale città? È meglio non dirlo, perché siccome è piuttosto notoria la cosa non vorrei incorrere nella diffamazione. Ecco, allora due ragazzi a bordo di una Ritmo bianca con una Parabellum, che è la pistola in dotazione delle forze di polizia. È un calibro 9 Parabellum, la pistola si chiama Beretta 92, delle pistole a canna lunga, e quindi siccome all'epoca ero un atleta in attività e sono riuscito a rifugiarmi in un locale pubblico e chiamare il 113. Allora avevo dato il numero della targa e mi hanno invitato ad andare in questura e ad accomodarmi. Dopo mezz'ora me l'hanno portati, però prima dell'identificazione mi hanno detto venga in questa stanza, mi si sono messi tutti attorno, non meno di 8-10 poliziotti, e lei lo rovina, sto ragazzo è di bella famiglia, e me lo portano alle carceri, lo è rovinato per sempre. Ora era il giorno del mio compleanno, gli ho detto beh vabbè, che devo dire, gli faccio un regalo io invece che farmelo fare da lui. Ah, che un vero signore, qua là tutte le infarinature, vabbè. Me l'hanno portato per l'identificazione, ha fatto il gesto di tendermi la mano, io avrei dovuto mollargli un ceffone, invece cosa che non l'ho fatta, perché purtroppo poi mi ritengo superiore. A quel punto aveva fatto una scelta, dargli un ceffone si ricominciava da capo. Vabbè. Uno sceglie, allora, o dentro o fuori. Sono tutti rilassati i questurini e hanno detto le può andare, vada, che è veramente stato veramente generoso. Allora io sono uscito dalla questura, ho fatto non più di 50 metri, ma ho detto ma io non so manco come si chiama questo qua, domani una ritorsione, una cosa, non queste minacce di morte, oddio forse volevano rapinarmi ma mi minacciavano di morte. Dico, sono tornato indietro, ripeto, non più di 50 metri, si apre il portone della questura e l'ufficiale che aveva condotta l'operazione e che avrebbe dovuto procedere d'ufficio. Gli ha stretta la mano a questi due sono saltati sulla macchina e sono scappati via. E allora io sono maresciallo, dico, ma lei mi aveva promesso che avrebbe tenuto la famiglia sveglia tutta la notte, che se la sarebbero ricordata per tutta la vita. No, no, si dimentichi tutto, sono dei maggiorenni. E lo so che sono dei maggiorenni, visto che hanno la patente. Adesso mi dica come si chiamano. No, si dimentichi tutto, vado a dormire. Vabbè, il giorno dopo sono andato all'ACI con il numero di targa, ho visto come si chiama questa persona e la mattina seguente sono andato a protestare dal questore in carica in quel momento, il quale dopo avermi ascoltato brevemente ha detto sì, è meglio che se ne vada perché lei ci sta diffamando, o la faccio arrestare, che dovevo fare? Mi ho messo la corda tra le gambe e me ne sono andato. Marcello, lo so, la sua è una vicenda diversa rispetto a quelle che stiamo trattando, qui non è morto nessuno. Lei ha subito un sopruso da parte di una frangia probabilmente non molto controllata le forze dell'ordine, non sapeva cosa facessero in quel momento, qual era l'operazione, se stavano sotto copertura. Lei aveva due posizioni, o faceva il duro da subito e non mollava, o se no una volta che è sceso al compromesso inutile va a prendere la targa e ritorna sulle sue strade. Luciano, buongiorno. 42 anni, ho vissuto gli anni 80, diciamo, con mio padre, ha fatto 40 anni il poliziotto e diciamo un terzo della mia famiglia è stato nei carabinieri e nella polizia. Mio padre diciamo è partito anche da incarichi, è stato 10 anni nella polizia politica, quindi insomma questo lo sentivo tutte le sere parlare, come dire, con mia madre di alcune cose che lo lasciavano sbigottito, perché comunque era un padre di famiglia. Purtroppo sono vicende, almeno quello che può succedere a tutti, esci da una discoteca e magari trovi come dire due lupi vestiti di blu o due lupi vestiti di nero che non hanno nessun scrupolo magari a malmenarti, parte la manganellata fatta bene. Io ricordo racconti e rimani sul terreno, ricordo racconti di mio padre che c'erano addirittura dei poliziotti che giravano con due pistole, una a tamburo che non lasciava ovviamente in caso di conflitto a foro nessun bosso, quindi non erano riconducibili alle forze dell'ordine, e forse molto probabilmente Giorgiana Masi è rimasta, come dire, anche impunita, perché in mezzo alle manifestazioni, io ricordo mio padre andava in giro con queste fasce tricolore, io stavo in una zona via Igea tra Balduina e Belsino, insomma lì era uno scontro ogni giorno. E ogni giorno poteva succedere. Ci sono rimasti anche i morti su quella zona lì, quindi. Sì, molti morti, però erano situazioni, ma anche oggi che conosco poliziotti giovani, c'è l'aitante poliziotto, quello che va, che magari sta nel reparto speciale, oppure che comunque crede in una giustizia anche molto personale, perché magari è aggravato dal stato familiare, dal fatto che ognuno di noi è arrabbiato, solo che quando si è arrabbiato con una pistola, quindi non la vedo dal punto di vista anche come di sociale, non è difficile da dirimere una situazione se non c'è il magistrato che super parte, se dice. Luciano, lo stiamo raccogliendo testimonianze di segno molto più superficiale, labile rispetto alle tragedie con cui siamo partiti. Ancora non mi è arrivata una testimonianza diretta, però che danno l'idea di un clima, danno l'idea di questa zona limacciosa, di questa sorta di interregno fra la legalità come la vediamo rappresentata e come immaginiamo che debba essere rappresentata e la totale illegalità, che come diceva giustamente Flavia Perina è una zona limacciosa intermedia che tutti abbiamo comunque attraversato qualche volta nella vita e continueremo a attraversare senza rendercene conto. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. 800240024, prendiamo l'occasione del riaprirsi di un'ennesima fase del caso Cucchi, morto secondo l'ultima perizia per un attacco di epilessia, e abbiamo associato questo fatto di cronaca di questa mattina con la cronaca degli anni più duri, degli anni di, cosiddetti di piombo, che poi gli anni di piombo sono una definizione superficiale giornalistica. Sono stati anni che hanno avuto una sfumatura lunga sia per entrarci che per uscirci. Una delle testimonie più lucide oggi di quegli anni lì è la romana Flavia Perina, che ha scritto un romanzo che racconta forse l'elemento clou di quegli anni, Le lupe, edito da Baldini e Castoldi, la storia di alcune donne che si mettono assieme per vendicare un ragazzo che era stato ammazzato dalla polizia, esattamente come è accaduto nel caso di Cucchi. Filippo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io ho 57 anni e purtroppo ho vissuto quei periodi dal vivo e come sicuramente... Dal morto era peggio, si consoli. Devo dire che il grosso problema era che c'era una diffusissima cultura dell'odio che ti veniva inculcata nei confronti dell'avversario politico, ma non è per questo che voglio intervenire, ma ormai dall'alto o dall'anzianità dei 57 anni vorrei però ricordare un gruppo di persone che spesso e volentieri ci si dimentica, un po' come se fossero degli automi, ovvero sia i ragazzi in divisa che sono morti. Cioè, mi sembra che troppe trasmissioni diano sempre la croce, per l'amor di Dio, ci sono le colpe e nessuno le toglie. Non la mia. Nei confronti, però mi sembra che ci sia un po' un filo del poliziotto non attento, del poliziotto imbecille, quello c'è dappertutto. Il problema è che ci sono tanti poliziotti, innanzitutto sono persone come gli poliziotti e carabinieri o quant'altro, che hanno una vita normalissima, che hanno delle famiglie. Ma nessuno nega, però scusi, ho capito, va bene, ne prendo atto, la mia non era un atto d'accusa, però è chiaro che noi andiamo a toccare l'elemento che ci desta meraviglia e sconcerto, quando in un corpo di rappresentanti della legge troviamo quelli che non sono in linea con quello che dovrebbe essere il modello. Gli altri, figuriamoci, onore al merito e gloria a tutti quelli che sono morti facendo il loro dovere. Flavia Perina, su questa telefonata. È un po' pasoliniana questa lettura, però no, è giusto farla. Nel libro in realtà c'è un personaggio, c'è un poliziotto coscienzioso, la madre della vittima viene a sapere il nome di chi ha ucciso questo ragazzo proprio da un poliziotto che non se la sente di tenere il segreto, anche se non se la sente di denunciarlo pubblicamente, perché dice: mi tratterebbero come una spia, mi tratterebbero i colleghi, non mi rivolgerebbero più parola. Però non ce la faccio a dormire la notte, lui ha un figlio gravemente malato e quindi si rende conto del dolore di una madre che ha visto spegnersi suo figlio, e in questa figura ho voluto proprio riassumere le cose che diceva l'ascoltatore. Certo. è perfettamente ovvio che il 90% delle forze dell'ordine fanno il dovere loro, spesso in condizioni molto, molto difficili. Ciò non toglie che questi casi sono esistiti, ci sono tutti i giorni. Io comincio a rifuggire dall'idea che bisogna sempre rimettere nel calderone tutto, che non si possa esprimere un'opinione o raccontare un pezzetto di storia senza dover sempre ritirare fuori, certo, tutto il resto. Ma anche perché poi nella fattispecie questo è un romanzo, e soprattutto io detesto nella romanzistica, nella letteratura, tutto quello che è moralista, che è pedagogico. Io ho cercato di scrivere un racconto che fosse bello da leggere, che desse delle emozioni. Non mi sono preoccupata affatto né dell'aspetto politico né dell'aspetto eventualmente pedagogico della cosa. Né dei pesi delle misure, né dei pesi delle misure. È un racconto, è un romanzo, spero che sia fatto bene. La narrativa come bene. La poesia deve, ecco, essere totalmente priva di ogni, certo, senso di compensazione degli equilibri altrui. Appunto. O colpisce o non colpisce. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno. Ho ascoltato anch'io con interesse il dibattito di questa mattina, anche perché io ero un giovane fine anni 70 che faceva parte di un servizio d'ordine di questi gruppi dell'estrema sinistra. Quale gruppo? Perché è importante sapere. Democrazia Proletaria. Sì. E tra l'altro comprerò il libro della Perina, che è appunto una delle persone più intelligenti che ci sono nella destra, in quella che si chiama destra. Però non sono d'accordo su una cosa. La memoria, stavo per dire la cattiveria. No, non è vero che la memoria sia condivisa. Non è vero che la memoria sia condivisa. È vero, dai, banda di coglioni. I sopravvissuti alla destra italiana, Dio ce ne guardi. Prego. Io non mi darei però più un'etichetta di destra comunque, no, da circa 10 certo anni. Era una semplicemente... Lo dice una uno che è stato... fortemente, diciamo, lo dico, non ho visto che anch'io, ognuno, sì, cioè, fortemente e giudizialmente accusato di essere di destra nella sua, sì, gioventù, quindi figuriamoci. No, quello che volevo dire io era questo: non è che la memoria non sia condivisa di quel periodo, è stata completamente rimossa, cioè nessuno ha più voglia di ricordare di quell'epoca. Ricordi un pezzetto lei della sua storia, nei 30 secondi che ha di tempo. Ma mi ricordo, il momento più difficile, quando ha avuto... Io fui anche... presi anche una coltellata da un ragazzo di estrema destra, no? Però voglio dire... Beh, lei non è che stava lì a raccogliere Margherita, però. No, no, certo, ma ci si pestava con quelli di estrema destra. Servizio d'ordine e democrazia proletaria. Esatto, ci si pestava. Però devo dire una cosa. Questo è un episodio che a me rimase molto colpito. C'ha 2 secondi. Molto colpito di una cosa. L'uccisione di un ragazzo di estrema destra, Francesco Ramelli, lo voglio dire... Certo. E a me colpì molto sta cosa, se ne discutemmo in tanti. Io quando vennero arrestati questi, io fui contento, perché fu quindi non è vero che dall'altra parte non si discuteva di queste cose. Sì, eravamo già in una fase in cui cominciava la gente a ragionare. Nella fase in cui si ragionava, ogni morto era un'attacca in più sulla propria chiave inglese, nel suo caso, o nel proprio coltello, nell'altro caso. Grazie Flavia Perina, grazie a tutti, alla prossima.